Sono depresso, la depressione è brutta. Chi mi sta accanto sta male. La mia vita è distrutta, aspetto il mio funerale. Questa situazione me la godo tutta. È una malattia, crisi di panico, la pazzia, la pazzia. Nell'armadio gli scheletri, prima avevo gli etti coi debiti. Chiudo ascolto i medici, le medicine tranquillanti. Metto le mani davanti, senza lavoro, senza contanti. I veri amici, posso contarli, posso contarvi. È da poco che rappo così, serio, mie fra, prendo l'aereo. Chi al cimitero, parla con chi forse non l'ascolta nemmeno. Questa vita è come un treno, glitterò il biglietto, aspetto l'arrivo, anche se non lo vedo. La mia famiglia, il mio credo, bevo finché non cado. Dio porta via tutto come un ladro. Giro per strada, la strada m'ha tenuto schiavo. Cresco nel quartiere con la mia gente, non è mai cambiato niente. Vogliamo fare i soldi come sempre, vogliamo fare i soldi come sempre. Dio aiuta questa gente, una donna a fianco, un amico in gabbia. La mia vita a granelli di sabbia, vola via tutto come sterpaglia. La mia vita a granelli di sabbia, my life, questa è la mia vita in mezzo a mille guai. Io non mollo mai, mai, mai. Vorresti fottermi ma zio non ci riuscirai. Ciò che ho visto tu non lo vedrai mai. Me la passo come mai, come mai, me la vivo come mai, come mai, così dura non l'è mai, non l'è mai, ma non mollerò mai. Io ci riuscirò, lo sai, this is my life.